stato accusato di non avere pietà per le vittime, è stato accusato di cinismo e a causa del cinismo è stato censurato, non c'è più Vauro in televisione. È una cosa aberrante, anche perché è stato un momento in cui forse l'informazione trascina a questo. Di cinismo sono stati malati in troppi, o non erano forse cinici tutti i politici che hanno usato l'Aquila come un set per farsi vedere, e non erano cinici perfino i giornali quando sceglievano la foto che dava più emozione da sbattere in prima pagina, e non sono stati cinici soprattutto i telegiornali della RAI, quelli che hanno fatto una TV delle lacrime in questi giorni senza mai fare il loro mestiere, quello dei giornalisti, quello di andare a vedere anche le cose che non vanno. All'Aquila durante il terremoto ci sono stati tanti eroi, ma ci sono anche le cose che non funzionano, se no non ci sarebbero stati tanti morti. Santoro ha cercato questo e Vauro è stato in questo momento l'anello debole, la satira, anche se la sua, devo dire, quella sera è stata una satira che sconfinava nella poesia, addirittura con l'ombra di quel povero Cristo tra le macerie del terremoto.